oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Buongiorno, che musichina, che bella. Hai sentito come ti ho accolto, anzi come vi ho accolto per questa nuova puntata? Grazie. Eh sì, una nuova puntata e andiamo subito a bomba, anche se non è proprio bello da dire. Sul tema, l'altra volta abbiamo parlato, visto che eravamo nella settimana che portava al 25 di novembre, di violenza e fino ad arrivare all'uccisione delle donne, una su tre era anche il titolo dello speciale di della settimana scorsa di Radio Città Fujiko, e avevamo ripromesso ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di tornare sul tema. Intanto, Francesco, per chiarire una serie di questioni che erano emerse l'altra volta, io voglio però ricordare innanzitutto che questo spazio è uno spazio dove è ospite con noi fondamentalmente uno psicologo e un tanatologo, quindi una persona che affronta tutte le varie tematiche che affrontiamo, in questo caso questa, dal punto di vista delle dinamiche psicologiche. E voglio specificare questo perché, per chi non ci ha magari ascoltato precedentemente, per chi ci ha colto per strada, diciamo così, è importante da dire, perché altrimenti si scivola facilmente sul fraintendimento e soprattutto sul fraintendimento linguistico. Perché i linguaggi di un militante o di una militante o di una persona impegnata in politica, cioè, sono completamente diversi da quelli o di una che ha subito violenza, insomma, a seconda dei degli ambiti possono assumere un valore diverso. E quindi comincio subito da un discorso di linguaggio, perché l'altra volta si parlava di assunzione di responsabilità da parte della persona che subisce la violenza, e ovviamente l'interpretazione diretta che è arrivata ai nostri ascoltatori, quindi sono emerse anche delle obiezioni, è proprio quella del equiparare assumersi la responsabilità con "è colpa mia", e quindi noi vogliamo assolutamente sgomberare da questo fraintendimento, dubbio, chiamatelo come volete, incomprensione, perché non credo che tu volessi arrivare lì. Assolutamente no, assolutamente no. Anzi, questo credo che questo dubbio ci può consentire di tornare sul tema, che in fondo è il tema della violenza, di come si contrasta la violenza, perché credo che tutte queste cose servono, tutte queste cose che ci diciamo servono, anche la giornata mondiale, servono per cercare di vedere se si può fare qualcosa per limitarla, evitarla e bandirla, quella violenza lì. Cioè, credo che siamo d'accordo su questo. Per cui io ne approfitterei per cercare di essere molto chiaro su cosa voglio dire quando dico che chi subisce violenza ha come alternativa vera, perché la violenza venga superata, di aiutare chi gliela inferta, questa violenza, non perché per assumersi, cioè per subirla due volte la violenza, perché certe volte è chiaro, né per quell'equivoco che di solito c'è di chi dice, giustamente osserva, che se uno ha subito violenza poi non tocca a lui superarla, questa violenza. Io però la penso in un altro modo, anche perché, come dire, nel tentativo di aiutare le persone a uscire dai danni che la violenza che hai subito provoca, noi constatiamo spessissimo che di fronte a una violenza subita ci sono fondamentalmente tre possibili reazioni. C'è la vendetta, la giustizia e il perdono. Sono le tre opzioni che noi abbiamo. La vendetta certe volte, come dire, è quello che tu preferisci, perché quando hai subito una violenza terribile certe volte tu vorresti vendicarti, e quando ti vendichi ti sfoghi. ma se la vendetta, se tu reagisci con la vendetta, che è giustificabile ovviamente, no? Se tu reagisci con la vendetta, la violenza a violenza segue un'altra violenza e non se ne esce, non se ne esce più. Quindi io per questo dico che questa via andrebbe evitata, perché nell'ottica del superamento della violenza. Non dico che non è psicologicamente giustificata, desiderabile e certe volte anche giusta, perché non c'è altro da fare, chiaro? Seconda opzione, la giustizia. Cosa vuol dire essere, reagire con giustizia quando uno subisce violenza? Ora, su questo la nostra cultura mostra uno dei suoi limiti più grossi, perché può significare occhio per occhio, giustizia può significare pareggiare il conto. E torniamo alla vendetta. E torniamo, non proprio vendetta, perché questa volta il conto lo potrebbe pareggiare la società. Certo. La società gli infligge la stessa violenza, non necessariamente tu che l'hai subita, perché questo sarebbe vendetta, gli infligge la stessa violenza, però anche in questo caso non ne usciamo, perché se tu che hai subito violenza, per avere giustizia, devi indurre la tua società, la società in cui vivi, a fare un'altra violenza, vuol dire che c'è un altro che ha subito quel male che hai subito tu. Non se ne esce, proprio non ne usciamo. L'altro modo di concepire la giustizia è di dire noi dobbiamo punire quello che ci ha fatto violenza, e nel punirlo però dobbiamo riabilitarlo, nel punirlo dobbiamo aiutarlo a superare le ragioni per cui è violento. Già qui c'è un barlume di quello che volevo dire, no? Lo dobbiamo aiutare, perché se soltanto lo puniamo con una violenza pari e contraria, la violenza non si supererà mai. L'altra possibilità, che naturalmente è una possibilità molto più difficile, è il perdono. Il perdono, direi quasi impossibile per una persona che è vittima. No, impossibile no, difficilissima, impossibile no. Ci vuole un grado di santità. Ci vuole un grado di santità. E il perdono, però, attenzione, il perdono nella nostra cultura può essere il perdono che tu non sei in grado di dare, ma che qualcuno dà. Per esempio i cristiani dicono così: Dio perdona loro perché non sanno quello che fanno. Mica sei tu che perdoni, è Dio che deve perdonare. Oppure Dio dammi la forza di non vendicarmi, cioè, d'accordo? Il modo ebraico, per esempio, invece di gestire il perdono è che è sempre la vittima che deve perdonare. Cioè, se vuoi perdonare devi essere tu che devi perdonare, quindi diventa ancora più difficile, no? Però anche nel perdono, che perdono vuol dire per trattino dono, cioè tu gli fai un regalo a quello. Cioè, se a uno, tutti vi ricordate una delle scene iniziali del romanzo I Miserabili di Victor Hugo. Arriva il ladro dentro casa di un santuomo, e questo santuomo, invece di fargli del male, invece di dire mi stai facendo del male, ribellarsi, invece di, lo perdona e gli offre il suo letto. Quando arrivano i gendarmi per arrestarlo, ha rubato questo, e quando lo trovano, lui dice no, gliel'ho dati io, anzi si è dimenticato quest'altro, d'accordo? Qual è la morale di questo? La morale è come finisce, come va avanti il libro, che un modo del riscatto del male è il bene, cioè il perdono. Allora noi abbiamo l'umanità di fronte alla violenza, ha a disposizione, ha escogitato finora, magari con una nuova evoluzione escogiterà altre cose, ha escogitato finora questi tipi di reazione. Di questi tipi di reazione, la giustizia e il perdono sono preferibili alla vendetta, giusto? Cioè sono più civili, giustizia e perdono. La giustizia è un po' più facile, ma è difficilissima lo stesso, il perdono è un po' più difficile. In ogni caso, anche perché siamo esseri umani e la santità fondamentalmente non ci appartiene. Esatto, però il problema è... E poi c'è anche il fatto che una persona che comunque subisce violenza è vessata dal punto di vista emotivo, quindi avere questa razionalità di, non è... No, ma io psicologicamente, certo, secondo me la sequenza dovrebbe essere questa: uno subisce violenza. Per superare la violenza, non è che il primo problema che bisogna porre è come superare la violenza. Il primo problema che bisogna porsi di fronte a uno che ha subito violenza è come fargli superare la violenza che ha subito. Quindi uno che ha subito un male, il male della violenza, dovrebbe ricevere da parte degli altri un bene uguale e contrario o superiore per poterlo superare. Una volta che quel bene ha agito e quella persona si è riconciliata con la vita, allora si può cominciare a chiedere. Allora si può cominciare a chiedere. Quindi la sequenza non è: tu hai subito la violenza, adesso perdonalo, adesso assumiti la responsabilità per lui. No, tu hai subito la violenza e la prima cosa che bisogna fare è aiutarti a superare quella violenza. E per questo noi certe volte non ci riusciamo ad arrivare a quel punto lì, e la violenza non si supera mai, perché il primo passaggio, cioè l'aiuto alle persone che hanno subito violenza, è la cosa che funziona meno nella nostra cultura. Perché come fai tu a fare, quale bene gli devi fare, quanto bene gli devi fare a uno che ha subito una violenza terribile, perché lo superi? Questo è il problema. Allora io penso che senza quel bene non ci arriviamo a poter superare la violenza con la giustizia e col perdono, perché la vendetta, il senso di vendetta prevale. Se invece noi siamo civili, la civiltà consiste in questo, che alla violenza subita segua un bene, bisogna coccolarlo, bisogna amarlo molto, bisogna accoglierlo tanto, bisogna amarlo per alcuni anni senza voler niente in cambio, quello che ha subito violenza, per potergli poi chiedere di aiutare quell'altro. Direi che in questo caso adesso mi è chiaro. E Willy, vuoi sentire un po' di musica intanto che finisci di riflettere? Perché dopo c'è un'altra suggestione da lanciare a Francesco. Prima della suggestione però diamo anche la suggestione alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Bravo. Di scrivere al 333-180-9494 oppure al nostro telefono per intervenire in diretta oltre la crisi allo 051-34-64-58. The Brecker Brother, If You Want Me to Stay. Non sono gli Sly and the Family Stone della scrittura originale di If You Want Me to Stay, My Backer Brother, e invece qua ci sono gli originali. Di fronte a me Francesca Clementoni e Francesco Campione. Francesco, ritorniamo in diretta, abbiamo parlato di giustizia, abbiamo parlato di fare del bene per contrastare il male, cioè agire il bene per contrastare il male, per fare del bene sembra molto caritatevole, non ci interessa questo piano. Io vorrei porti invece una cosa che sta un po' a metà. Stiamo sempre parlando delle fasi primordiali, cioè della fase, diciamo, psicologica di risoluzione. E prendo spunto da un editoriale che ha scritto il nostro direttore Alessandro Canella proprio il giorno della giornata internazionale contro la violenza alle donne. E lui si poneva ovviamente da maschio, quindi da categoria che tende a essere prevalentemente violenta, anche solo per una questione, diciamo, genetica, ormonale, fisica, ecco. E si poneva la questione di dire: ok, io maschio posso dire no, non mi sta bene questa cosa, e fare le campagne, non va bene la violenza, eccetera, eccetera. Ma si poneva anche la questione di un di più. E questo di più lui lo individuava nel, come maschio, cominciare a mettere insieme delle strategie perché la violenza sulle donne diventi stigma sociale e quindi possa aiutare a prevenire la violenza agita. Cioè, prima ancora che una persona che magari parlando con gli amici al bar fa la battuta classica sessista e gli amici lo guardano male, oppure gli dicono: ma no, dai, sta roba è vecchia, non so, adesso la semplifico molto, può aiutare a far cambiare qualche cosa, quantomeno a reprimerlo, nel senso di dire: beh, se lo faccio così magari i miei amici mi guardano male o non lo approvano, la società che sta intorno a me non lo approva, e quindi a ridurre reazioni di questo tipo. Cosa pensi di questo? Ah, io penso che questo è un meccanismo classico, praticamente il meccanismo della vergogna, no? Cioè, tu tante cose non le fai perché ti vergogni, non perché non hai voglia di farle, cioè, diciamolo, no? Certo. Tante cose non le fai perché se ti vedono ti stigmatizzano, perché se ti vedono ti criticano, perché se ti vedono ti dicono che non va bene, no? Sì, certo, è un meccanismo sociale per contenere, per avere un meccanismo che consenta alle persone di preferire il fatto di essere approvati rispetto ai propri impulsi, no? Cioè, in definitiva, tu se una cosa ti vergogni di farla, non la fai non perché non vorresti farla, ma perché, quindi è un modo. Io però penso che sia, come dire, uno di quei meccanismi che nel momento in cui tu ti liberi come persona non funzionano più. Spiegami meglio. Ti spiego. In che senso? Ti spiego. Cioè, sono quei meccanismi che ti fanno sentire che non è che tu stai facendo una cosa, non stai facendo una cosa, per esempio una violenza a una donna, perché non sei convinto, perché è ingiusto farla, ma perché paghi un prezzo. Cioè, in definitiva, è come la differenza che c'è tra il lavorare volentieri e il lavorare perché ti danno un incentivo, no? Io però penso anche che il fatto che intorno a te si dica quella cosa, pian pianino possa instillare dentro il fatto che quella cosa forse non è giusta. Sì, questo sì, però a prescindere dal gradimento o meno sociale. No, ma siccome è un meccanismo antico quello, io penso che sia adottabile, ma che ha molti limiti. Cioè, non si può risolvere il problema con così, quello. Ah no, certo, cioè, è uno degli aspetti che può essere messo in campo. Secondo me è il modo giusto per chi ancora non ha un grado di autonomia tale da poter fare base su un senso morale suo autonomo. È chiaro? Cioè, se noi, quindi secondo me è una cosa utile, ma che, come dire, se ci fermiamo lì, È come se pensassimo, accompagnata con altre strategie. È come se pensassimo che uno non può arrivare a dire dentro di sé la violenza fatta a un altro ingiusta, e non solo perché non mi vedono che non la, o solo perché mi vedono che la devo, che non la devo fare, solo perché mi giudicano. Quello è, come dire, finché non sono autonomo, certo c'è, bisogna notare, dal punto di vista filosofico, no? Che c'è chi pensa talmente male della natura umana che pensa che noi ad avere un punto di vista morale autonomo non ci arriveremo mai. Allora, questo bisogna dirlo, eh? Per esempio, se tu nella concezione kantiana della morale, la morale è ciò che fa degno un uomo di essere detto tale, cioè uomo, perché dentro di sé ha una legge morale che è basata sulla sua autonomia, cioè a cui lui può dire sì o no. Se invece tu pensi che l'uomo non abbia dentro di sé questa autonomia, questa possibilità, allora è chiaro che l'unica possibilità che abbiamo per fermarci di fronte a qualcosa di brutto, cioè alla violenza, è quella lì. Certo. E a proposito di formazione della morale, o comunque per capire cosa è giusto, cosa non è giusto nel nostro comportamento quotidiano, una cosa che l'altra volta abbiamo solo appena toccato e su cui tornerei adesso prima di entrare in pubblicità, ovvero l'educazione dei piccoli, delle piccole e dei piccoli, sia dal punto di vista scolastico che familiare. Ovviamente puntiamo molto tra le varie strategie su questa cosa, confidiamo molto che le generazioni prossime debellino finalmente la violenza nei confronti delle donne. Allora, andiamo sul concreto, così magari sollecitiamo anche i nostri ascoltatori a chiamarci per esempio per raccontarci esperienze loro con i loro figli proprio su questo tema. A livello educativo, i bambini e le bambine, come viene differenziata l'educazione, come invece potrebbe essere messa in campo un'educazione che porti al rispetto reciproco e quindi al non utilizzare l'abuso di potere da parte appunto dei maschi nei confronti delle femmine. Certo, intanto secondo me il problema è che finché noi non superiamo l'idea che bisogna combattere certe violenze e non tutta la violenza, noi non ci possiamo riuscire. Perché alla base della violenza contro le donne, degli uomini nei confronti delle donne, c'è la diversità. E se alla diversità si associa una differenza di forza, no? Noi inevitabilmente arriveremo a un punto in cui tu una cosa che puoi fare perché sei più forte non la devi fare perché è morale, e si scontrano due punti fondamentalmente difficilissimi: da una cosa che si può fare prima o dopo si fa, cioè una cosa che si basa su una realtà prima o dopo si fa. Cioè, se noi vogliamo debellare la violenza contro le donne, dobbiamo riuscire a combattere nell'educazione la violenza in generale. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'educazione prima di educare i maschi, nonostante il fatto che siano più forti, ad andare contro le donne, dobbiamo insegnargli che non c'è nessuno superiore a un altro. Io però voglio, questo ok, però volevo entrare invece in un altro merito, ovvero una sorta di, si potrebbe dire politicamente, educazione sessista che ci appartiene. Che so, i maschi devono fare certe cose ma certe altre non sono tenuti, le femmine devono fare, parlo proprio le femmine voluto in questo caso, in maniera dispregiativa del concetto, insomma, devono fare certe cose, certe altre no, questa cosa si addice un maschio, questa cosa si addice una femmina. Quanto c'è di dannoso in questo tipo di, anche nei confronti poi dello sviluppare la violenza? Lo diciamo dopo la pubblicità? Diciamo, cosa dici? Diciamolo dopo. Visto l'intensità dell'argomento, sì, e ricordiamo il numero, sì, 333-180-9494, intervenire in diretta, pronto, 051-34-6458. Ndambi, poi pubblicità e torniamo col professor Campione per Oltre la crisi. make the most of the time that we have together. Sono già le 13:36 minuti, rientriamo in diretta accompagnati dalla splendida voce di Ndambi, corista della grande Erika Badu, e diciamo così che per questo mercoledì 27 novembre, oltre la crisi, sta prendendo un po' poca compagnia. E quindi io ripeto il numero di telefono 333-180-9494 o il nostro telefono fisso 051-34-6458. Vi stiamo aspettando. Stiamo parlando di violenza, soprattutto siamo partiti appunto già dalla puntata scorsa parlando di femminicidio, quindi di violenza nei confronti delle donne, e era rimasta una domanda in sospeso prima dell'interruzione pubblicitaria, dello stacco pubblicitario, ovvero quanto si può incidere sul tipo di educazione. Francesco Campione parlava di educare alla non violenza e quindi cominciare a sfrondare, a togliere la violenza dal percorso educativo, e io invece l'ho sollecitato, ovviamente questo sì, bene, non invece, ma l'ho sollecitato anche sul fronte dell'educazione sui modelli, quindi sul modello maschio, sul modello femmina, e anzi sollecito i nostri ascoltatori ai numeri che tu hai citato a magari darci la loro esperienza, sia da educatori di figli o figlie, oppure da figli educati, da ruolo di figli, insomma, quali sono state le loro esperienze, se è stata un'educazione che delineava una serie di modelli ben definiti per quel che riguarda il comportamento maschile e femminile, oppure se hanno avuto un altro tipo di esperienza. Francesco. Sì, dunque, una piccola notazione storica, evolutiva, no? Fino a un certo punto le culture, la nostra in definitiva, la nostra cultura, ha avuto bisogno di indicare ai bambini durante l'educazione un modello maschile e un modello femminile ben definiti in funzione di una certa concezione della famiglia, no? A un certo punto questo modello è andato in crisi. Ora, questa crisi però ha delle cose buone e delle cose cattive. Ha delle cose buone nel senso che, come dire, non è più vero che l'unica famiglia possibile è quella con due genitori e un bambino, ma ci sono tante altre famiglie possibili. Quindi comunque uno sia stato educato può fare famiglia lo stesso, ormai si sa, no? D'accordo? Resta però il fatto che la maggior parte di queste famiglie, che siano tradizionali o che non siano tradizionali, vanno in crisi. Quindi la nostra cultura, la nostra società, giustamente, avrebbe bisogno di proporre un altro modello che mettesse meno in crisi le relazioni, che facesse sì che le relazioni possano essere più stabili, più durature, più resistenti alle crisi, per esempio ai lutti, le persone si separano quando c'è un lutto perché ognuno reagisce a modo suo, così eccetera. Cosa bisognerebbe fare? Qual è? C'è la situazione di oggi è che si continua inerzialmente a proporre un'identità maschile dominata dalla genitalità e un'identità femminile dominata dalla genitalità. Però sono in crisi tutti e due, nel senso che ci sono tantissimi maschi che vorrebbero essere femmine, tantissime femmine che vorrebbero essere maschi. C'è una crisi paurosa da questo punto. Dovremmo inserire la famosa linea educativa neutra per tornare a quel discorso che avevamo già fatto. Sì, quando secondo me bisognerebbe l'indizio è dato dal fatto che bisognerebbe, in definitiva, far sì. C'è bisogno di un'identità e di modelli da indicare ai bambini, no? Attraverso l'esempio anche, no? D'accordo? Ma queste identità e questi modelli non dovrebbero essere dominati da qualcosa di biologico, dovrebbero essere dominati da qualcosa di sociale, spirituale, personale, dovrebbero essere altri modelli. Sulla costruzione di questi modelli grava il fatto che noi, in qualche modo, nella modernità, attenzione, siamo passati da un modello familistico di derivazione personalistica, cristiana, così eccetera, a un modello biologico di derivazione mondo animale. Non è che abbiamo guadagnato molto. Non abbiamo guadagnato molto. Bisognerebbe, appunto, il problema sarebbe questo. Tu dovresti educare il tuo bambino a pensare che il modo d'essere giusto è quello di uno che sappia essere maschio o femmina, ma che sappia esserlo non prevalentemente in senso biologico, ma che sappia esserlo prevalentemente in senso umano e spirituale. Per cui, per esempio, nel momento in cui tu dici io sono un maschio, non significa che sono contro una femmina, perché significa che sono un uomo. E quell'altro potrebbe dire io sono una femmina, non vuol dire che sono contro il maschio, ma sono un uomo. Senti, mi sa che abbiamo una telefonata in linea. Sì, così. Sì, abbiamo una telefonata in linea, abbiamo ai nostri microfoni Emanuela, buongiorno. Emanuela, buongiorno. Aspetta che abbiamo i volumi forse troppo alti. Facciamo sì, un ho po' sentito di... un fischio che probabilmente ci ha ucciso Emanuela al telefono. Emanuela, ci no, sei? Sono. Ah, ok. Perfetto. Benvenuta. Benvenuti anche a voi. Nel senso, scusate, io mi intrometto un po' nella vostra discussione e poi certo. Ho questo fischio terribile che mi ha assordato, mi ha fatto perdere l'ultima parte dell'intervento del professor Campione, quindi forse non so se mi inserisco sul tema giusto. Vai tranquilla. Al di là, secondo me, dell'educazione di genere, e qui in Italia io credo. Mi sono confrontata con l'estero, i problemi ci sono, magari sono diversi, ma noi abbiamo ancora dei modelli in un certo senso molto antichi di educazione rispetto a poi quello che è la realtà che ci troviamo ad affrontare. Quindi secondo me quella contraddizione che dicevate prima c'è, però credo che, io premetto, non ho per fortuna mia mai subito violenza, però difficoltà nel rapportarmi con l'altro genere le ho avute anche importanti, nel senso che sto venendo fuori da una separazione che non è stata semplicissima. Quello di cui io mi sono resa conto è che l'aspetto su cui noi ci incastravamo male, che è stata una difficoltà sia mia che del mio partner, è stato quello di gestire la forza, i rapporti di forza all'interno della coppia. Cioè lì noi abbiamo sbagliato moltissimo ed è lì che la violenza, secondo me, è intervenuta, in violenza nel senso di scontro, per fortuna che non è degenerata come i casi che purtroppo si leggono sulla cronaca, però è lì che la violenza poi è diventata l'unica risposta alla frustrazione, cioè all'incapacità di gestire dei rapporti di forza. Nel senso, non so se... È chiarissimo, direi. Vero Francesco? Io no, ma se vuole aggiungere... Cosa. Vai. No, nel senso che forse non, probabilmente la differenza tra chi davvero compie una violenza fino ad arrivare a un omicidio, suicidio, magari è anche qualitativamente diversa, chiaramente intervengono poi degli aspetti del vissuto di ciascuno, cioè non è che tutti noi portati all'esasperazione secondo me possiamo arrivare a questi estremi. Contemporaneamente però mi rendo conto che c'è anche una differenza quantitativa, cioè una gradazione diversa, e tutti noi nella difficoltà tante volte di gestire quell'identità che dicevate voi, che non è solo identità di genere, ma è anche un'identità legata ai ruoli, chi siamo nella società, chi siamo per i nostri amici, chi siamo per le famiglie che sono belle invadenti nel determinare i nostri rapporti di genere, secondo me quella difficoltà lì trova poi in un aumento esasperato della frustrazione l'unica risposta nella violenza, che sia violenza verbale, che sia chiusura, che sia non ascolto, che sia anche semplicemente chiusura chiudere il canale dell'empatia. Se quando tutte le cose vanno bene è facile essere empatici e mettersi nelle scarpe degli altri, quando le cose vanno male, mi ci metto in prima persona, la mia risposta è stata quella di difendere in modo anche violento quelli che io pensavo dovessero essere dei diritti riconosciuti mi dagli altri, a prescindere dal fatto che io sapessi invece comunicare i miei bisogni e le mie esigenze. Quindi credo, questo lo dico nel dettaglio per l'educazione, cioè forse bisognerebbe davvero insegnare ai bambini questa gestione. Certo, mi sembra giustissimo, condivido totalmente quello che hai detto, nel senso che appunto il problema è proprio questo, educare a gestire i rapporti di forza, questo è il punto, possiamo farlo in un modo adeguato finché, no è una domanda, possiamo farlo in modo adeguato finché consideriamo la forza una cosa positiva e la debolezza una cosa negativa? Ah. Cioè, questo è un punto fondamentale, no? Perché il problema è che quando tu con la tua forza sei più forte di un altro e invadi la vita di un altro, per esempio gli dici cosa deve fare, no? Mm-hmm. D'accordo? Scatta quella necessità di dimostrare che lo fai per il suo bene, no? Se tu non riesci a dimostrare che lo fai per il suo bene, e cosa lo dimostra che lo fai per il suo bene? Che l'altro accetta che tu ti imponga. Se l'altro accetta che tu ti imponga, allora lo stai facendo per il suo bene, se no non lo stai facendo per il suo bene. Allora il punto delicato è proprio lì, non che la forza non vada usata, la forza va usata, però nel momento in cui tu, facendo forza su un altro più debole che ti fa entrare in casa sua, gli porti dentro qualcosa di buono, quello ti lascia dentro, se gli porti qualcosa di cattivo, quello ti caccia fuori. Ma se non ha la forza per cacciarti fuori, tu devi andare fuori spontaneamente. Questo è il punto fondamentale della questione. Per cui, però, tu come fai ad andare fuori spontaneamente se sei così contento di essere forte? Allora, io direi che dovremmo insegnare ai bambini ad essere contenti di essere forti quando questo produce un bene negli altri. E quando non è sopraffazione negli altri. Appunto, quando produce un bene negli altri, quando produce sopraffazione degli altri, quando produce scontentezza degli altri, la forza è la cosa peggiore che possa esistere al mondo, meglio la debolezza. Sempre per citare i filosofi, c'era Gorgia che diceva: è preferibile subire una violenza che farla. Questa è tosta. Questa è tosta, Francesco. Manuela, non so se siamo riusciti un po' a intercettare la tua... Beh, devo dire che avete messo, secondo me, il dito nella piaga. L'accento su uno degli aspetti giusti, e mi date anche una mano a capire un consiglio che mi è stato dato tanto tempo fa da un carissimo amico, che in un momento davvero molto difficile lui mi ha detto che dovevo difendere la mia fragilità, come se fosse stato un aspetto positivo. E non come l'aspetto che in quel momento mi dannava di più, perché mi sentivo molto in colpa di essere fragile, come se non fossi stata sufficientemente forte da difendermi. E invece questa cosa mi fa capire forse il valore di quella fragilità, dove potrebbe essere, perché è anche giusto difenderla. Esatto. Perché forse è quella fragilità che ti permette a un certo punto, quella debolezza, che ti permette di essere flessibile e di fare un passo indietro quando la tua forza ferisce, quando la tua forza è soppruso. Ti aggiungo una cosa, difenderla nel senso di aprirla, cioè farla scorrere, perché altrimenti c'è un'altra difesa, che è quella poi che Francesco Campione stava dicendo, che è quella di difenderla con la forza, nel senso di chiuderla, di metterci un pietrone davanti perché si ha paura di manifestarla. Certo, una sembra che una delle cose più diffuse, il concetto più diffuso della Bibbia sia la debolezza e forza. Mica solo della Bibbia, anche della filosofia orientale. ti dirò. Quindi vedi che alla fine si accomunano tutte le varie filosofie. Manuela, io ti ringrazio tantissimo. Dicevo, Autecing che consiglia. Pronto? Scusa, puoi ripetere che ti abbiamo persa un attimo? Dicevo, è nel Tao Te Ching che dice che è meglio essere acqua che roccia. Esatto, infatti. Bene, e dopo questa citazione noi ti ringraziamo tanto. Purché non ci sia l'alluvione. Lasciamo stare questo argomento. Brutto tasto. Brutto argomento. Grazie mille, Manuela. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Anche a te. Ecco, io volevo... mandiamo un branettino veloce. Ce n'hai uno corto? Ma lo possiamo tagliare, direi proprio che non c'è problema. Perché guarda, io poi vorrei mettere giù un'altra cosa concreta. Allora, con musica Francesco. Subito. No more. What am I supposed to do with you? Meno male che dovevamo tenere il brano corto, ma come al solito ci si perde in chiacchiere costruttive, però assolutamente. Allora, io adesso lancio una domanda a Francesco che secondo me ci può dare il là per la prossima trasmissione, perché pian pianino andiamo verso l'uscita da questo tema. Cioè, come dire, pensaci e poi... Sì, perché io la prossima puntata, te lo annuncio già, vorrei parlare di amore. E quindi ci arriviamo in questo modo, perché siccome spesso viene sbandierato l'amore come motore, ovviamente non condividiamo, però insomma questo è, ci arriveremo alla prossima puntata. Però io adesso vorrei tornare al nostro tema, la perdita. E allora, in un clima di violenza subita per chiunque, ma soprattutto per una donna, quali sono le perdite e come si può fare nel momento in cui questa persona si svela per quello che sta subendo, a ricominciare pian pianino a ripristinare quel bene famoso che prima mi alzavi come si dice a pallavolo, no? Mi alzavi una palla perfetta, ok? Come comincio a farle del bene ripristinando quelle che sono le perdite, certo, cioè, che sono molteplici, cioè, vorrei parlare male di queste. Allora, direi che come dire, ogni violenza, quindi anche la violenza fatta nei confronti delle donne, ha un effetto che può essere sull'altro, che può essere indicato come la perdita del valore di sé o di un pezzo del valore di sé, che dal punto di vista emotivo, dal punto di vista delle emozioni, vuol dire umiliazione. Cioè, in realtà ogni violenza, di qualunque tipo sia, anche quella indiretta del potere finanziario che sposta le attività economiche da un'altra parte e tu ti ritrovi licenziato senza sapere come, qualunque tipo di violenza, sia quella che ti tocca, sia quella che è una violenza diretta, sia quella che è una violenza indiretta, in realtà mette in pericolo, quello che ti fa perdere è il valore di te stesso, che equivale, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista del sentire, dei vissuti, a un'umiliazione. Il che vuol dire che tutte le volte che ci poniamo il problema di sapere quali beni, fra virgolette, dobbiamo mettere in campo per superare il male della violenza, cioè l'umiliazione, la perdita del valore di sé, la risposta è scontata: dobbiamo mettere in campo tutti i beni che innalzano il valore di sé. Tutto quello che possiamo fare per un altro che si sente diminuito nel suo valore, dobbiamo farlo perché si senta di nuovo innalzato nel suo valore. E riprenda coscienza di sé in un qualche modo. No, che riprenda coscienza di sé. Percezione del suo valore. Come coscienza di sé, perché la coscienza di sé ce l'ha uno anche quando ha coscienza di sé come una merda. Sì. Purtroppo è vero, è lì che spesso si va a incidere sul fatto di far sentire una persona una nullità, incapace, addirittura colpevole, quindi torniamo al fraintendimento. Esatto, e purtroppo nel corso della storia abbiamo assistito al paradosso che la maggior parte delle reazioni all'umiliazione consistono in altre violenze, cioè nel ripagare con altra umiliazione. Cioè, il circolo vizioso della storia è praticamente questo: tutti quelli, i popoli umiliati, gli individui umiliati, i generi umiliati, così eccetera, tendono a reagire umiliando a loro volta. È questa trappola che dovremmo, cioè, invece che reagire con un male, si tende a reagire con un bene dall'altra parte. Questo è, come dire, la trappola. Oppure l'altra reazione che mi viene in mente è la non reazione, nel senso la paralisi. Beh, la paralisi vuol dire continuare a subire. La paralisi vuol dire continuare a subire. La paralisi vuol dire continuare a subire. Quando non sei in grado di creare l'umiliazione, diciamo, di risposta, l'altra risposta è la paralisi. Tanto è vero che quando poi... si arriva, quelle donne che arrivano a svelare quello che gli sta accadendo, ci arrivano dopo molto molto tempo. Prima hanno passato mesi, anni, situazioni, ma quando ci arrivano, centinaia di situazioni di umiliazione, certo. Che le ha, ma quando ci arrivano chiuse. Però mostrano il loro volto di vittima e a quel punto un po' di forza l'acquistano. Siamo in conclusione. Bene, concludiamo. Ho detto che la prossima volta voglio parlare di amore. Finalmente. Anche sì. Perché a chiunque di noi è successo di perdere un amore in qualsiasi veste, e quindi credo che nel nostro contesto della perdita e del come superare le perdite ci stia, ci sta benissimo. A fagiolo. Perdita o rifiuto anche possiamo aggiungere. Sì, sì, bene. Delusione d'amore. Bellissimo, sì. Che meraviglia, per un sentimentale come me sicuramente, oddio, non me la perdo. Ci si mette in moto, William, siamo rovinati. Vi invitiamo all'ascolto, quindi ciao. Mercoledì prossimo, un buon pomeriggio, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione.